Storie italiane. Pollicina. C'era una volta una signora che viveva da sola. Aveva sempre desiderato una figlia da quando lei stessa era una ragazzina. Una bella mattina stava innaffiando le piante e piangeva. Pensava se avessi una bambina con cui poter giocare. Una fata madrina apparve di fronte a lei. Che succede, mia bambina? Perché stai piangendo? Desidero tanto avere una bambina. Per favore, dimmi dove posso trovarne una. Nessuno mi aiuta. Oh, non preoccuparti. Questo si avvererà presto. La fata madrina, con i suoi poteri magici, fece apparire un seme davanti a lei. Mia bambina, vedi? Questo non è un seme normale che cresce nei campi. Questo seme ha bisogno di tanto amore e calore. Mettilo in un vaso di fiori e vedrai che cosa accadrà. Non dimenticarti di metterlo alla luce del sole. Oh, grazie, madrina. Sei così generosa. Piantò il seme nel vaso. Lo mise davanti alla finestra per dargli abbastanza luce. Crebbe presto un bel fiore grande, che sembrava un tulipano. La donna lo fece crescere con amore e lo innaffiò ogni giorno. E un giorno baciò teneramente i suoi petali socchiusi. E come per magia, il fiore si aprì in un bocciolo. Dentro sedeva una delicatissima, graziosa e piccola signorina. È la mia bambina, mia figlia! La chiamerò Pollicina. Infatti non è tanto più grande del mio pollice. Sono la tua mamma, bambina. E il tuo nome è Pollicina. Il fiore le aveva dato la figlia che lei aveva sempre sognato. Aveva un guscio di noce che le faceva da culla, petali di viola come materasso ed usava un petalo di rosa come coperta. Durante il giorno giocava in un petalo di tulipano che navigava come una barca in un piatto d'acqua, andando da un lato all'altro con remi di crine di cavallo. Era davvero uno spettacolo. Una notte si addormentò nel suo guscio di noce. Una grossa rana saltò dentro da un buco che c'era nella finestra. Com'è carina! Sarebbe la sposa perfetta per il mio carissimo figlio! Prese con sé il guscio di noce in cui la piccola stava dormendo e mise Pollicina su una foglia di ninfea in mezzo allo stagno. L'ho messa su una foglia di ninfea. Non riuscirà mai a scapparci ora. La lasciò sola sulla foglia verde. Pollicina si sedette e pianse. Non voleva per sposo l'orribile figlio della rana. Io non ti sposerò mai! Non puoi dirmi questo! Intanto, la mamma di Pollicina provò a cercarla in ogni angolo della casa, ma non riusciva a trovarla. C'era un banco di pesci che nuotavano in acqua vicino a lei. Avevano visto la rana e sentito la loro conversazione. Erano così dispiaciuti che decisero di aiutarla. Mentre la rana e suo figlio erano impegnati a preparare il matrimonio. I pesci si riunirono intorno allo stelo verde e lo morsero coi denti. La foglia si separò e Pollicina iniziò a navigare. Grazie tante! Ragazzi, siete davvero gentili! Pollicina andò via, lontano lontano, dove le rane non potevano trovarla. Navigando, passò da molti posti e dove gli uccellini la vedevano, le dicevano: «Che splendida bambina!» Quando venne buio, si arrotolò dentro una foglia e si addormentò. Ma il mattino dopo si svegliò in un posto dove il sole colpiva l'acqua trasformandola in oro brillante. Stava arrivando verso la fine del ruscello, quando un grosso insetto le volò vicino. «Che bella bambina è lei! La devo salvare!» Strinse subito le sue zampe intorno a lei e la portò via in un posto lontano lontano. «Dove mi stai portando, signor insetto?» «Ti sto portando a casa mia!» Dopo un po', quando raggiunsero la casa degli insetti, tutti gli insetti che vivevano nell'albero uscirono a vedere chi era arrivato. «Amici, guardate questa bellissima bambina! Io la sposerò!» «Ma ha solo due gambe! Che brutta cosa da vedere!» «E guarda, ha solo due mani! Che vergogna! Sembra un essere umano! Com'è brutta!» Il signor insetto fu d'accordo con loro e alla fine, arrabbiato, la abbandonò in un posto nel profondo del bosco. Si avvicinava l'inverno. La neve cominciò a cadere e la bambina tremava dal freddo. Era un freddo terribile per lei. Camminò a lungo per trovare del cibo e un rifugio. Dopo un po' di tempo, passò da una casetta. Si avvicinò alla grande porta della casa e bussò. Uscì la signora topo di campagna che viveva nella casetta. «Chi sei tu, povera piccola cosa? Ah, mi sono persa nel bosco. Ho molto freddo e non ho niente da mangiare. Mi puoi aiutare?» «Vivo sola qui. Puoi entrare in casa e cenare con me. Avrai caldo qui. Ma prima, potrei sapere il tuo nome?» «Sono Pollicina!» Pollicina entrò. La casetta era calda e bella, con un'intera stanza per il grano e una cucina con una dispensa. «Grazie per aver diviso il tuo cibo con me e avermi ospitata in un posto caldo!» «Puoi stare con me per tutto l'inverno!» «Signora Topo, è davvero gentile!» La signora Topo era così affascinata dalla bellezza di Pollicina che avrebbe voluto tenerla con sé per sempre. «Inizia il fine settimana e avremo un ospite oggi. Una volta a settimana il mio vicino viene a trovarmi.» Poco dopo suonò il campanello e apparve il signor Talpa. Andava a trovarle con un cappotto nero-viola. La talpa sentì la voce di Pollicina e si innamorò di quel dolce suono. Decise di sposarla. Così andò dalla signora topo e disse: «Ti darò tutto il mio cibo e la mia casa, solo se mi farai sposare questa bellissima bambina!» La signora topo non poté dire di no alla ricca talpa. «Bene, comincerò i preparativi allora!» «Sì!» Pollicina non voleva sposare la talpa, così la mattina dopo decise di scappare via. Mentre vagava nel bosco, passò vicino ad una passerella ferita che giaceva a terra tra gli alberi. «Poverina, deve essere certamente morta dal freddo!» Ma avvicinandosi, vide che la passerella era viva, era solo ferita. «Stai bene, cara passerella?» «Oh no, stai sanguinando!» Pollicina decise di aiutare la passerotta e le procurò delle bende e delle medicine. «Non si preoccupi, signora passerella, tra poco starà bene.» La piccola passerotta poté volare non appena le mise le garze. «Addio, bella piccola passerotta! Grazie, bella piccola bambina! Non dimenticherò mai questa cosa! Cosa potrei fare per te?» Ma subito vide la signora topo e il signor talpa che si avvicinavano e la chiamavano. «Oh, Pollicina, dove sei?» Quando sentì le loro voci, Pollicina raccontò tutto alla passerella. La signora Topo vuole che mi sposi col signor Talpa. Per favore, puoi portarmi in un posto lontano da qui? Non voglio sposare il signor Talpa. Ho un piano! Forza! Sali sulla mia schiena! Veloce! Addio, signora Topo! Grazie di tutto! Ti voglio bene e non dimenticherò mai ciò che hai fatto. Il signor Talpa e la signora Topo erano sorpresi di vedere Pollicina volare via. La passerotta la condusse in una terra di fiori. Ne crescevano di tutti i tipi e c'erano uccellini che cantavano. Questo posto è meraviglioso. Come si chiama? Si chiama la Terra del Fiore. Ed è tempo che io vada. Grazie, signorina passerotta. Sei la migliore. Pollicina era molto felice. Questa è la mia casa. I fiori hanno un buon profumo. Gli uccelli un canto dolce. Dopo un po' ricordò la sua vera casa e come la sua mamma l'aveva cresciuta con amore. Si sentì molto triste e volle andare a casa. Ma ecco che apparve il re della Terra del Fiore. Vide Pollicina e se ne innamorò. Sono il re della Terra del Fiore e tu sei la più bella ragazza che abbia mai visto. Vuoi sposarmi ed essere mia moglie? Ti farò la regina della Terra del Fiore. Pollicina pensò per un minuto. Questo era davvero un marito diverso dal figlio della rana, dal signor insetto e dal signor talpa col cappotto nero e viola. Sì, solo se mi riporti da mia madre. E noi tre vivremo felici laggiù. Lui acconsentì e portò a Pollicina un regalo. Il più bel regalo di tutti. Un paio di ali appartenute ad una grande mosca d'argento. Quando le vennero messe sulla schiena, anche lei poté volare di fiore in fiore. Si sposarono presto. Dopo il matrimonio, il re e Pollicina volarono via e trovarono la casa della madre. La madre fu davvero felice di vederla tornare. Oh, Pollicina! Non sai quanto sono felice di riaverti qui! Non ti lascerò più andare via da me ora! Non ti lascerò mai, mamma! La madre diede il benvenuto a entrambi e vissero sempre felici e contenti.